9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon 27 di maggio, oggi Sant'Agostino di Kant e effettivamente forse a un santo bisogna appellarsi, perché il tema che ho scelto di trattare oggi è un tema delicatissimo. Perché è delicatissimo? Perché si tratta di un rinvio a giudizio che è avvenuto 2 giorni fa e che a me ha fatto, devo dire, molto riflettere, sul quale spero sia possibile oggi parlare e approfondire senza che si crei alcun tipo di equivoco, perché stiamo parlando del terremoto dell'Aquila e quindi stiamo parlando di una tragedia terribile che ha provocato dolore, vittime, lutti, che ha sconvolto l'Italia, che ha mobilitato la solidarietà internazionale. Stiamo parlando di 309 morti nei crolli del terremoto che avvenne alle 3:32 del 6 aprile 2009, che colpì l'Aquila e molti piccoli centri, alcuni dei quali vennero completamente distrutti, quindi oltre 300 vittime, 1600 feriti, una scia poi di questioni aperte sulla ricostruzione ancora dei centri, a cominciare dall'Aquila, che è aperta. Però il rinvio a giudizio avvenuto all'Aquila dei 7 membri della Commissione Grandi Rischi, della Commissione della Protezione Civile, richiesto dalla Procura e disposto dal giudice dell'udienza preliminare per l'accusa di omicidio colposo in ordine al terremoto, cioè l'accusa è quella di avere sottovalutato i rischi dello sciame sismico, di non aver indotto la popolazione all'evacuazione. Questo tipo di fattispecie giuridica, la richiesta della procura e l'accoglimento da parte del giudice dell'udienza preliminare, mi ha fatto molto riflettere, della verità, e lo dico nel più pieno totale rispetto. Non vorrei fare il bis del caso Thyssen, di cui mi sento colpevole con tutto quello che è successo poi all'assise di Bergamo di Confindustria, lo dico con il più pieno rispetto e senza intendere neanche per un nanosecondo, potete credermi tutti coloro che siete in ascolto, mancare di rispetto a nessuna delle 309 vittime, dei familiari, è terribile chiaramente quello che è accaduto, ma rinviare a giudizio i 7 membri della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile per omicidio colposo di fronte a un tema come quello della prevedibilità del terremoto mi ha fatto molto riflettere. Io penso che in questo paese vi sia una deriva antisviluppista, di cui la deriva antiscientifica e quella antiindustriale sono due grandi filoni. Lo dico senza il timore di essere frainteso e mi chiedo se questa richiesta e questo accoglimento da parte del giudice dell'udienza preliminare non costituisca un altro passo avanti verso questa pangiuridizzazione del rischio a cui stiamo assistendo in questo paese di fronte a ogni rischio, l'incidente sul lavoro o lo sciame sismico. Quello che diventa fondamentale per risarcire l'irrisarcibile, cioè le vittime e i danni, diventa la categorizzazione di una fattispecie penale che è quella di omicidio. Omicidio di fronte a come si prevedono i terremoti e in realtà significa di fronte a uno sciame sismico si adotta il criterio della prevedibilità scientifica che ci dice che non da uno sciame sismico per questo deriva automaticamente una grande scossa e tantomeno dove è l'epicentro, oppure dobbiamo invece adottare, come sembra implicito in questo tipo di giudizi e di fattispecie penale, adottare di fronte a uno sciame sismico d'ora in poi il principio della massima cautela possibile, il che significa evacuare tutto l'evacuabile nel più ampio raggio rispetto a un sospetto di epicentro che non può essere, a ciò che ci dicono gli scienziati oggi, identificabile con certezza, e quindi allarmismi e tutto quello che dall'allarmismo generale si può ingenerare. Ecco, io mi fermo qua di fronte, e il mio è un interrogativo, in altre parole. Io so cosa rispondermi, ma la mia è un'opinione personale, io so cosa rispondermi perché a me questo tipo di procedimenti non piacciono, io sono contrario alla pangiuridizzazione del rischio di fronte a rischi che provocano danni e vittime. La mia opinione è che la via giudiziale serve a non a risarcire l'irrisarcibile, non a sentenze esemplari, serve ad accertare eventuali catene conseguenziali di fatti che inducono a vittime e danni e a punire con precisione chirurgica laddove vi siano responsabilità. Io non credo affatto alla funzione della giustizia masianellica che in piazza ristabilisce ciò che non può essere ristabilito, appunto le 309 vittime che non possono tornare. Però mi interessa molto approfondire tecnicamente come stanno le cose. Una cosa è sicura, come avvenne per il caso Thyssen, non li voglio accomunare, era un unicum in Italia e in Europa. Anche in questo caso questa fattispecie di omicidio colposo rappresenta un unicum al mondo di applicazione del diritto penale a una mancata rappresentazione di rischio sismico. Pensate che cosa avverrebbe qualora fosse questo il criterio adottato in Giappone, per esempio. Essere chiaro, cioè in terre ad alta ed elevata esposizione agli eventi sismici, anche una parte dell'Italia, molto elevata dell'Italia, la parte appenninica, come sappiamo, il centro meridionale, è molto esposta a eventi sismici. La popolazione italiana lo sa, chi decide di avere case da quelle parti lo sa, chi decide di costruire fino alle pendici del Vesuvio lo sa. La domanda è, viviamo in un mondo nel quale diventa responsabile di omicidio colposo chi a quel punto non ci dice se noi abbiamo deciso di vivere, di costruire una casa in una zona ad alta sensazione sismica che per uno sciame dobbiamo abbandonarla, oppure siamo noi stessi per primi che dobbiamo capire qual è il rischio a cui siamo esposti, quali sono le tipologie di edilizie delle case che costruiamo o che compriamo o che affittiamo, eccetera eccetera eccetera. Io sono naturalmente per la seconda strada, ma può essere che mi sbagli. Sentiamo oggi a questi microfoni degli i nostri ospiti che rappresentano punti di vista diversi. Io ho tentato di rispettare, lo dico ancora una volta, le opinioni di tutti e soprattutto i parenti delle vittime, le associazioni che si sono costituite parte civile. Desidero stare lontano da ogni tipo di polemica su questa faccenda. Mi ha molto colpito però il fatto che ancora una volta noi con il diritto crediamo di dare una lezione al mondo. Può essere che sia giusto e allora in quel caso io mi sbaglio e sentiamo gli ospiti che cosa ci diranno. Abbiamo innanzitutto con noi Enzo Boschi, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Buongiorno al professor Boschi. Buongiorno a lei. E Giuseppe Zamberletti, lo ricordate benissimo perché tutte le volte che si parla di protezione civile nel nostro paese, lui che ne è stato il fondatore, l'ex commissario straordinario dei terremoti del Friuli 76 e Alpini 80, fondatore della moderna protezione civile, oggi presiede l'Istituto di Studi e Ricerche sulla Protezione Civile e Difesa Civile, e a lui abbiamo chiesto anche di darci un lume su questa intricata vicenda. Buongiorno e grazie a Giuseppe Zamberletti. Buongiorno. Ecco, posso chiedere innanzitutto, prima che allo scienziato Enzo Boschi, a Giuseppe Zamberletti questo tipo di rinvio a giudizio che cosa evoca? Ma devo dire che intanto voglio dire una cosa subito, che io voglio esprimere a Enzo Boschi, a Franco Barberi, a Calvi, a Eva, cioè quattro componenti della Commissione dei Grandi Rischi che hanno partecipato alla riunione dell'Aquila, tutto il mio apprezzamento perché e la mia solidarietà e anche la mia gratitudine, perché Barberi e Boschi furono fra i fondatori del sistema di protezione civile, fecero parte della neocostituita Commissione dei Grandi Rischi che io volli costituire subito dopo la costituzione del sistema nuovo del Dipartimento e la nomina del Ministro della Protezione Civile, mentre nasceva la Protezione Civile. Qual era il compito della Commissione? Di fornire informazioni, notizie e soprattutto anche giudizi alla autorità politica che presiede alla guida della Protezione Civile, perché questa potesse prendere poi nella sua responsabilità delle decisioni. Quindi la Commissione dei Grandi Rischi non gestisce le emergenze né impone delle posizioni. Devo dire una cosa, ho sentito la sua introduzione, io ricordo di avere, Boschi lo sa benissimo, ricordo di avere nell'85 sgomberato la Garfagnana per la semplice ragione, cioè va fatto passare per alcune notti alla ghiaccio la popolazione, perché sulla base delle serie storico-statistiche la Commissione mi aveva comunicato che in quella occasione, sulla base della valutazione di ciò che era avvenuto negli anni e nei secoli scorsi, poteva, non c'è una probabilità, ma una possibilità che seguisse una scossa distintiva. La Commissione non mi disse di fare quello, non toccava la Commissione, toccava la decisione politica, decidere se questa possibilità si dovesse tradurre in un ordine di sgombero alla popolazione concordato con i sindaci e con il territorio, oppure sperare che questa possibilità rimanesse una possibilità. Io ho preso quella decisione e mi si accusò di procurato all'aria. Cioè, in sostanza il terremoto non venne, in quel caso la possibilità rimase una possibilità, però non si verificò l'evento, e quindi devo dire che oggi pensare che la Commissione Grandi Rischi possa avanzare delle previsioni è una cosa assurda, anche perché i terremoti non si possono prevedere. Purtroppo lo studio dei precursori è ancora lontano dall'approdo, e quindi esistono dei precursori su cui si studia, quello per esempio dell'emissione del radon 222, delle modifiche delle misure di emissione del radon 222, ma sono delle condizioni che sono degli eventi che accompagnano o seguono i terremoti, ma spesso avvengono anche senza presenza di terremoti. Per esempio c'è un quartiere di Roma che ha delle forti emissioni di radon, ma nessuno pensa che lì ci possa essere un terremoto, perché la nostra comunità scientifica si è sempre attenuta alle serie storico-statistiche, cioè quando un evento è successo a seguito per esempio di uno sciame sismico, c'è stata una scossa distruttiva, hanno il dovere di segnalare ciò che è avvenuto nel passato, e quindi l'autorità politica deve prendere le decisioni. Allora, sentiamo, andiamo dal professor Enzo Boschi. Sette componenti della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile che sono rinviati a giudizio per omicidio colposo sono Franco Barberi, che era presidente vicario dell'organo, Bernardo Bernardinis, che era dirigente della Protezione Civile, poi Giulio Selvaggi, che è direttore del Centro Terremoti della Protezione Civile, il professor Claudio Eva, che è docente universitario di fisica, Gian Michele Calvi, responsabile del progetto Casa, poi Mauro Dolce, dirigente della Protezione Civile, e poi Enzo Boschi, appunto, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Professore, l'accusa in particolare si riferisce a questa specie, a questa sottovalutazione che avreste compiuto dello sciame. C'entra qualche cosa con ciò di cui scrissero i giornali con il tecnico Giuliani, che poi a propria volta si è beccato un'indagine per procurato allarme e che fece però giungere alla conclusione tutta la stampa italiana? Ancora una volta ricordiamolo che allo stato attuale della scienza non esistono modalità capaci, come ci ricordava Zamberletti, di farci predire epicentro, luogo, intensità di un sisma. Oppure no, di che cosa siete insomma accusati? Dunque, siamo accusati di negligenza, se ho ben capito, e di avere sostanzialmente rassicurato la popolazione. Per quanto mi concerne, io non ho rassicurato mai nessuno, è una questione di principio, perché in Italia si può avere terremoti piccoli e grandi un po' dappertutto, quindi rassicurare proprio. E non si conosce la qualità degli edifici, perché poi sono gli edifici mal costruiti che creano i problemi, non i terremoti, che sono fenomeni del tutto naturali. Però mi è piaciuto molto il suo intervento iniziale, quando ha posto il problema. E insieme a Zamberletti, all'indomani del terremoto di Virpinia, l'abbiamo risolto in questa maniera, cioè i terremoti non si possono prevedere. Però possiamo avere tutto un insieme di conoscenze di carattere geologico, geofisico e anche storico, perché l'Italia è sempre stata abitata da gente colta che lasciava tracce di quello che succedeva, per scoprire dove sono con precisione le zone del nostro paese dove si possono verificare forti terremoti. E in questa maniera dare delle indicazioni a chi deve costruire, ai comuni, ai province, alle regioni, allo Stato, di prendere quelle precauzioni, quelle misure di difesa per impedire che un terremoto diventasse una tragedia come è successo per esempio all'Aquila. Questo è stato fatto, abbiamo la mappa sismica meglio organizzata al mondo, peraltro pubblicata addirittura sulla Gazzetta Ufficiale da alcuni anni, e quindi il compito dei sismologi sostanzialmente è stato risolto in questa maniera. Poi, se c'è una sequenza sismica, non possiamo far niente, perché io le posso dimostrare che ogni anno ne abbiamo una decina di sequenze sismiche che non portano a niente. Cioè, in Italia registriamo circa 5.000 scosse all'anno, piccole scosse, che posso suddividere a seconda di gusti quasi in tante sequenze sismiche che potrebbero far immaginare un terremoto in qualunque parte delle zone sismiche individuali. Quindi una sequenza sismica non può costituire un fenomeno precursore. Addirittura tutti gli studi che abbiamo fatto sulla pericolosità sismica in Italia, con particolare sull'Abruzzo, perché abbiamo dimostrato in varie occasioni che l'Abruzzo è la zona a maggior pericolosità sismica che abbiamo in Italia, questi ci vengono rivoltati contro dicendo: come, sapevate tutto questo e non avete fatto niente? In realtà quello che noi facciamo lo facciamo affinché si possano prendere misure che rendono gli edifici sicuri, non è che individuiamo il momento in cui si verifica il terremoto. Molto chiaro. Allora, si è collegato con noi Vincenzo Vittorini, che è il presidente della Fondazione 6 Aprile per la Vita, una onlus dell'associazione 309 martiri dell'Aquila. È un medico, Vittorini, quindi ha a che fare anche lui per professione, per studi, con la scienza, ed è stato personalmente, direttamente e duramente colpito dal sisma, nel senso che ci ha rimesso familiari molto, molto, molto stretti. E una delle associazioni, la sua, che si è costituita parte civile, e a Vincenzo Vittorini, oltre a salutarlo e ringraziarlo, gli chiedo: perché vi siete costituiti parte civile, qual è secondo voi il fondamento dell'azione intentata e dove può portare questa fattispecie dell'omicidio colposo? Buongiorno a tutti. Guardi, io le dico, io inizio così il mio intervento. Penso che alla base di tutto ciò ci sia un enorme errore di quello di cui si parla. Qui nessuno, né noi familiari delle vittime che abbiamo fatto l'esposto, né penso i giudici, perché se si leggono, se si legge la memoria del PM e quello che poi ha deciso il giudice, nessuno ha mai posto in gioco la previsione del terremoto. Nessuno di noi ha mai chiesto l'ora esatta del terremoto, nessuno di noi ha chiesto mai l'evacuazione della città. Alla base di tutto ciò c'è un'altra cosa molto importante, nel senso che noi non siamo stati posti nella condizione di poter scegliere, e le dico perché noi, la cittadinanza aquilana, la cittadinanza del cratere, non era a conoscenza. Sì, noi sapevamo che la nostra città era... ogni tanto arrivavano terremoti, ma non conoscevamo tutto quello che sappiamo ora, e cioè che noi che abitiamo ad Aquila, oppure chi viene ad Aquila, da tutti definita una delle 20 più belle città d'arte d'Italia, oppure i ragazzi che hanno scelto l'Aquila, la città universitaria dell'Aquila, per il loro futuro, ebbene, nessuno di noi sapeva di... stare su una bomba d'orologeria. Aspetti, questa ha la sua importanza dal mio punto di vista. Cioè, si può vivere e risiedere all'Aquila, non essere turista in quel caso, ma vivere e risiedere all'Aquila e ignorare che nel Settecento fu rasa al suolo. Questo lo sapevamo. Questo sapevamo, perciò le dico, questo sapevamo, che l'Aquila è stata colpita due volte nella storia, prima di questa, da forti terremoti, però non sapevamo tutto il resto, che l'Aquila fosse una delle zone a più alta pericolosità sismica. Non sapevamo però tutto il resto, e cioè nessuno aveva mai messo a conoscenza la popolazione di tutto quello che invece il mondo scientifico sapeva. Allora, per esempio, il rapporto Barberi, per esempio lo studio di Abruzzo Engineering, che avevano definito la fragilità degli edifici dell'Aquila. Certo. Nessuno di noi era stato messo a conoscenza che al di sotto del centro storico dell'Aquila c'è un valore di accelerazione dell'onda sismica pari a 10 volte. Pari a 10 volte. Ebbene, poi noi anche, io sono il primo colpevole, perché io quella notte ho deciso, non me ne vogliano gli altri, ma ero la Commissione Grandi Rischi, la Protezione Civile, i vari enti locali, ero quello che doveva decidere se stare a casa o meno. Ebbene, io quella notte ho sbagliato, e di questo la mia colpa ce l'avrò sempre nella vita, perché quella notte ho deciso insieme di stare in casa con mia moglie e mia figlia. Ma questo non è il problema. Qui si sta parafrasando, si sta tentando di cambiare quella che è la realtà delle cose. E le ripeto, noi volevamo essere messi a conoscenza di stare su una bomba d'orologeria, cioè essere messi a conoscenza di tutte queste valutazioni che erano state fatte negli anni precedenti dal mondo scientifico e che dovevano essere prese in considerazione dalla Commissione dei Grandi Rischi. Penso invece che una riunione di 45 minuti non possa prendere in considerazione tutto ciò che noi, per esempio, con un convegno che ha curato l'Associazione 309 Martiri dell'Aquila, tenuto a Casa Onna i primi di dicembre del 2010, abbiamo valutato tutte quello che erano le cose che si sapevano, però purtroppo le abbiamo sapute, conosciute dopo. Ora sappiamo tutto, però questa possibilità non ci è stata data. Quindi qui non è in questione il fatto di che è stata messa sotto processo la scienza. Qui sono stati rinviati a giudizio e quindi poi bisognerà vedere se saranno meno colpevoli. Certo. Sono degli uomini che devono, anch'io sono un uomo fra virgolette di scienza, il mio lavoro è il chirurgo. Io quando faccio il chirurgo, ogni momento dell'attività della mia giornata, sono portato a valutare i rischi e a parlarne col paziente. Di conseguenza noi volevamo essere messi al corrente di ciò. Quindi è tutta una mistificazione quello che si sta tentando di far passare. Io so benissimo che i terremoti sono non prevedibili. Io non chiedevo alle autorità tutte di evacuare una città, perché è chiaro che se non si può prevedere un sisma non si può nemmeno evacuare. Però io dovevo essere messo, io esigevo di sapere tutto quanto quello che dopo, purtroppo dopo, ho saputo. Io quando parlo di io, è chiaro, parlo a nome di familiari delle vittime, certo. Cittadino dell'altro. No, ma io, vede, professor Vittorini, io apposta non l'ho interrotto, io sono convinto che nella realtà dei fatti la procura e il giudice dell'udienza preliminare abbia accolto estesamente il fondamento che è più esteso della predicibilità del suo ragionamento. Sta di fatto che poi le carte me le sono andate a vedere, che il nocciolo fondante della richiesta del pubblico ministero verte sulla riunione che la Commissione Grandi Rischi ha avuto il 31 marzo del 2009, cioè sei giorni prima del sisma, e l'argomento fondamentale nella richiesta di rinvio a giudizio è proprio sul fatto che in quell'occasione, la riunione del 31 marzo, alla Commissione Grandi Rischi vi sarebbe stata una valutazione del rischio sismico approssimativa, generica, inefficace, sto leggendo la parola del PM, in relazione all'attività della Commissione e ai doveri di prevenzione e previsione del rischio sismico. In tal modo gli imputati sono venuti meno ai doveri di valutazione del rischio connessi alla loro funzione, anche sotto il profilo dell'informazione, perché queste notizie rassicuranti hanno indotto le vittime a restare nelle case. Come si vede, la richiesta del pubblico ministero non è in ordine a un'estensione generale di problematiche sulla tipologia di terreno dell'Aquila, l'indice di amplificazione dell'onda sismica, l'informativa precisa area per area, immobile per immobile, a chi vi risiedeva, della maggiore esposizione al rischio per tipologia di realizzazione, vetustà delle strutture portanti. Qui si parla dell'andamento di una precisa riunione nella quale l'accusa ai sette componenti è quella di avere sottovalutato uno sciame sismico in presenza del quale avrebbero dovuto prevedere e raccomandare prevedere il sisma e raccomandare l'evacuazione. E quindi io sono abituato a pensare che se si fa un processo poi è di quello che bisogna parlare, perché più estesamente, ripeto, io ritengo che poi i cittadini, gli individui, le persone, le famiglie, io non penso che si debba accusare qualcuno dello Stato che ci deve informare se la casa è pencolante. Lo so che è terribile dirlo dopo le vittime, quindi con la morte nel cuore lo dico a proposito di questa vicenda, però penso che noi dobbiamo essere autoresponsabili. Se io vivo in una catapecchia e costruisco a 500 metri dall'orlo del cratere del Vesuvio, non credo che possa poi prendermela con lo Stato. Invece inevitabilmente avverrà, io spero di non essere vivo il giorno in cui avviene l'evento nel Vesuvio, perché sarà di una tale portata, eventualmente, vista la scala delle eruzioni più violente, che anche in quel giorno noi ci chiederemo dove eravamo quando centinaia di migliaia di abitazioni, centinaia di migliaia di residenti sotto gli occhi di tutti fanno finta di non sapere. Cosa diranno? Che c'è qualcuno che non li ha avvisati di quello che è avvenuto nel 79 con la grande eruzione in cui ci rimise le penne Plinio? Non credo che sia giusto pensare così, ma ripeto, lo dico con il massimo rispetto a tutti, perché questo sarà un caso, quello del dibattimento dell'Aquila, che comunque farà precedente non solo in Italia ma nel mondo. Ora abbiamo pubblicità perché siamo in ritardo già di 5 minuti. Eccoci tornati in studio, ci stiamo occupando della richiesta di rinvio a giudizio accolta dal GUP dell'Aquila per i 7 componenti della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile, accusa aver sottovalutato i rischi nella riunione della Commissione 6 giorni prima del sisma. Tra le tante mail che, come prevedevo, stanno arrivando, diciamo che la proporzione è di 60-40, 60% contro la mia tesi, 40% a favore, più o meno. Ce n'è una, ce ne sono diverse che andrebbero lette, ma una in particolare che mi consente di fare una domanda, perché è molto precisa. È Marco San Giorgio, la firma, e lo ringrazio molto perché arricchisce con la sua osservazione e corregge anche l'impostazione che ho dato. Dice così: Giannino, sono un geologo e non sono d'accordo con lei. I membri della commissione sono indagati perché non hanno seguito il primo principio dello scienziato. Quando non si ha la certezza totale, non si può dire che un evento avverrà o non avverrà. Non è questo il punto. La colpa invece è questa: aver rassicurato la popolazione senza averne la certezza assoluta. Per i membri di una commissione creata appositamente per dare giudizi sul rischio, questa, a mio giudizio, dice Marco San Giorgio, è una colpa grave. Chiedo a Enzo Boschi, di fronte a questa riformulazione, per così dire, aver rassicurato, la sua risposta, professor Boschi, qual è? Io purtroppo devo dire che non ho assolutamente rassicurato nessuno. Non credo che si possa trovare un documento, un'intervista, una mia dichiarazione in televisione in cui rassicuro. Infatti neanche il pubblico ministero che si accusava mi ha detto questo, insomma, ci ha riconosciuto che assolutamente non l'ho rassicurato nessuno. È una questione di principio, cioè un sismologo passa la vita a dichiarare che certe zone sono a rischio sismico, poi va in quella zona e dice state tranquilli, non succede niente. Insomma, è semplicemente ridicolo. Certo. E poi volevo rispondere a Vittorini, al quale rivolgo un saluto, e vorrei fargli presente una cosa, senza nessuna polemica. Cioè, è normale che lui abbia questa sensazione adesso, però vi assicuro che tutte le informazioni che cerchiamo di dare alla popolazione non hanno nessun seguito in tempi normali. Cioè, mi spiego, per esempio, riuscì a far pubblicare sul Corriere della Sera, quindi il massimo giornale italiano, la mappa dei terremoti probabili per i prossimi 20 anni alla fine degli anni 90. Pensavo di avere richieste di informazioni, addirittura essere indagato per procurato allarme, e nessuno reagì. Abbiamo tenuto dei corsi nelle scuole dell'Ancona nel passato, negli anni precedenti al terremoto, per spiegare appunto la possibilità di eventi del pericolo sismico all'Aquila. E posso fornire eventualmente anche i nomi di queste scuole, non in questo momento, certo, di queste scuole, di docenti che molto gentilmente ci aiutarono in questa operazione, ma la cosa non ebbe nessun effetto. Cioè, con il massimo rispetto vorrei dire a Vittorini che in tempi normali alla gente dei terremoti non interessa. Adesso è uscita la mappa di pericolosità sismica italiana, dove ci sono moltissime zone a rischio, ma nessuno si è fatto vivo per avere informazioni, per sapere se la propria casa è sicura, che cosa fare, che cosa non fare. Questa è la situazione. Sentiamo un paio di telefonate. Carmelo chiama da Monza. Prego, Carmelo. Buongiorno Giannino. Vorrei chiedere questo. Mi risulta che la Sicilia orientale, nella mappa a cui fa riferimento il professor Boschi, la Sicilia orientale ci sta a pieno titolo. Non soltanto perché c'è effettivamente, ma anche perché c'è statisticamente, con la storia del terremoto di Messina, di cui di sicura memoria. Sì. Io che appunto in Sicilia orientale, sui Monti Nebrodi, possiedo una piccola casa per la quale ho ottenuto una regolare concessione edilizia, ho richiesto un ampliamento e in collaborazione con l'architetto che ha elaborato il progetto abbiamo appunto elaborato un progetto che rispondesse ai criteri di antisismicità. Sì. Per questa cosa abbiamo dovuto sottoporre il nostro progetto all'approvazione supplementare del competente ufficio statale, il Genio Civile di Messina, sì, appunto, che ha riscontrato parere favorevole sul nostro progetto anche in considerazione dei parametri di antisismicità e di elaborazione particolare che erano stati introdotti, che sono stati introdotti sulla legislazione italiana dopo l'Aquila. Sì. In conseguenza di tutto questo, io per poter costruire la mia casa, per poter ampliare la mia casa, ho dovuto sostenere un aggravio di spese notevole. Beh certo, i criteri antisismici significa tecnologie, perfetto, materiali, eccetera, e questo di più. Ergo, perfetto, il punto qual è? Calcestruzzo. Certo, certo, ma il punto qual è, Carmen? Il punto è questo. Io sono stato ben felice di poter sostenere queste spese aggiuntive, ma penso che ho cercato di mettermi nella condizione che qualora che malauguratamente in futuro dovesse succedere un terremoto, forse la mia abitazione richiederà un minore intervento allo Stato. Certo. In conseguenza di ciò, in conseguenza di questo discorso, sì, avevo saputo, avevo sentito mesi or sono che il Presidente del Consiglio e altri politici italiani avevano cercato di fare un decreto legge o comunque di premiare coloro i quali che potevano fare appunto una la deducibilità delle spese. Ha avuto la deducibilità delle spese lei? Assolutamente no. Oh Carmelo, fine, perché bisogna essere un po' più brevi. Il punto è questo: invece che forse imputare allo Stato di venirci a raccontare i rischi dove siamo, perché io in questo credo che veramente il cittadino e la persona e la famiglia siano, perché siccome il diritto alla vita è un diritto naturale, per la mia visione dell'ordinamento, un diritto naturale, io il mio diritto alla vita lo autotutelo prima di chiedere una tutela all'ordinamento. Qui è proprio una questione di filosofia del diritto, perché c'è chi crede invece che venga prima lo Stato e allora è lo Stato che deve pensare a tutto. Io non credo allo Stato etico, io credo che il mio diritto alla vita, come alla libertà e alla proprietà, sia un diritto naturale mio, della mia persona, quindi io mi faccio autoresponsabile dei rischi di dove vado a vivere. Allora dice Carmelo, non solo c'è questa visione pangiudicista, ce n'è un'altra invece dello Stato che poi non ci dà neanche una mano, noi che siamo in zone sismiche, e forse proprio per indurci all'antisismicità, visto che siamo un paese a differenza del Giappone in cui poi avvengono le vittime, mentre lì ci sono sismi di intensità spaventosa, lì sono molto più contenute, perché? Perché appunto gli edifici, le tecnologie urbanistiche, abitative eccetera, tengono conto nel massimo grado di ciò che dicono gli scienziati. Noi gli scienziati ce lo dicono, non diamo retta, ce ne freghiamo, risparmiamo, lo Stato non ci dà neanche gli incentivi fiscali per fare tecnologie adeguate, dopodiché invece dopo pretendiamo la catena di responsabilità. La mia sensazione è che sono proprio due diverse visioni del mondo. Virginio da Ravenna? Salve, buongiorno a tutti i suoi ospiti. Rapido io però. Ho un ricordo molto nitido che è di una cosa di cui sono stato testimone praticamente. Alla fine degli anni 90, adesso l'anno preciso non lo so, non me lo ricordo, tutta la zona di Faenza, che è vista da casa mia circa 25-30 km, sì, venne colpita da uno sciame sismico di una certa importanza, lo avvertivo io a 15 km da casa, da, sì, da dove, e quindi mise in allarme molto la popolazione, quindi chi aveva le case un po'. Il comune, d'intesa con la protezione civile, credo, ma sono sicuro comunque dell'episodio, allestì una tendopoli preventiva nel campo sportivo comunale di Faenza, che chi voleva dormire lì la notte, voleva star lì tutto il giorno, era a disposizione completamente della popolazione. Quindi che, Virginia le dice, insomma, la commissione a grandi rischi forse se dava un po' di consigli più cauti era meglio. Io sono testimone di questo, che c'era proprio la foto nitida di tutto il campo sportivo coperto di tende e anche molti cittadini si trasferirono per un per un certo periodo dal comune di residenza andavano a casa dei va prezzi, bene Virginia, chiaro, lei è per la massima cautela, benissimo, benissimo, ci ha ricordato un'altra esperienza, abbiamo le informazioni sulla circolazione stradale, dopo un minuto siamo di nuovo qua. Allora, alcuni altri ascoltatori dicono: caro Giannino, l'alluvione di Alessandria ebbe uno strascico giudiziario, in seguito al quale ogni volta che nell'area sono previsti eventi di un qualunque tipo, anche naturale, pioggia intensa e così via, la protezione civile da allora in poi ci manda un fax allarme a tutti i comuni in maniera da evitare ogni tipo di polemica. Finirà così anche quest'altra volta. Qualcun altro invece non è d'accordo e ritiene che io stia attaccando i giudici perché i giudici l'Aquila di sinistra non è stata ricostruita dal governo e sto coprendo il governo. Francamente lo riporto con una punta di sorriso sulle labbra, ma comunque rispetto a tutti gli ascoltatori. Abbiamo collegato con noi Alfredo Biondi, che è avvocato e nel procedimento difende il professor Claudio Eva, che è uno dei 7 componenti della commissione Grandi Rischi, docente universitario di fisica. Chiedo all'avvocato Biondi, nel dibattimento si vedrà, ma intanto l'evidenza non c'era già rispetto ai rilievi posti dalla procura accolti invece dal GUP? Guardi, la zona dell'Aquilano, diciamo così, è una zona sismica di cui tutti conoscevano la storia e anche la frequenza, diciamo, di questi fenomeni di sommovimento della terra. Uno sciame sismico era in atto da 4 mesi sicuramente, da qualche anno a livelli infine inferiori è sempre stato in atto. Quindi la protezione civile fu chiamata, diciamo così, chiamò per bocca del suo allora capo Bertolaso alla commissione Grandi Rischi, 3 membri di essa, uno dei quali era il professor Eva, a dire come la pensavano su questa realtà che pareva avesse, come dire, particolarmente preoccupato oltre il limite di tutti i giorni la popolazione, il sindaco, l'assessore alla protezione civile, il territorio, eccetera. La commissione arrivò e Eva, perché io difendo Eva, disse che questi sciami, questi fenomeni di percussione non sono di carattere tali da determinare una percezione di ora, di luogo, di entità, di magnitudo di un terremoto. E disse però: non si può escludere questo, disse, non si può escludere che questo non si verifichi. Diciamo che i precursori in sé non sono stati. La scienza si è espressa così sulla base di una visione, come dire, secolare degli accertamenti che sono stati fatti. Ora, uno dovrebbe rispondere, essendo uno scienziato, di aver espresso un parere. Non tocca alla Commissione Grandi Rischi dare, assumere misure, come per esempio ho sentito dire poco fa da un ascoltatore di Ravenna, di fare le tendopoli. Questo aspetta alle autorità di protezione civile, che sono, a partire dal sindaco, il sindaco, il prefetto, l'assessore competente se c'è, e questi hanno il dovere di prendere delle misure di carattere preventivo. Ma lei capisce bene, Giannino, che in Italia è più facile reprimere che prevenire, e di conseguenza le decisioni che derivano dall'applicazione dei principi di protezione civile devono essere assunti da chi li deve assumere. Quando mi si chiede se uno sciame sismico determina un terremoto, io dico: dal punto di vista scientifico non lo precede, anzi si è fornito una prova, diciamo, palmare, perché per esempio in Garfagnana il capo della protezione civile Zamberletti prese la misura di evacuare, mi pare, 12 paesi per uno sciame sismico che era in atto, evacuarono i paesi. Sai che è successo alla fine? Procurato allarme, immagino. Ecco, non puoi dare i problemi di procurato allarme. Ora, io non voglio dire, la discussione c'è stata e lei sa quanto un avvocato a parlare delle cose che non sono andate per il verso, e dico giusto nel senso giusto. Certo. Ci soffre, è così, e io ci ho sofferto perché è una decisione nella quale è stata condannata la scienza ed è stato condannato lo scienziato, perché le misure che la scienza, chiamata a esprimersi, aveva indicato e fornito, cioè di preoccupazione, e sono state confuse con una forma di tranquillizzazione. Certamente, certamente. Io ringrazio l'avvocato Biondi, come ringrazio Enzo Boschi, a cui faccio gli auguri, il presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Ringrazio Vincenzo Vittorini con profondissimo rispetto per il senso che dà all'azione civile della Fondazione Si Aprile per la Vita e dell'Associazione 309 Martiri dell'Aquila. La si può pensare diversamente come oggi in ordine alle responsabilità precise dei 7 componenti della Commissione Grandi Rischi, senza per questo, neanche per un secondo, negare il riconoscimento all'opera che sta compiendo chi come lui, colpito dolorosissimamente nei più ristretti affetti familiari, fa per la città. Quindi onore a Vincenzo Vittorini. Ci si può dividere nei dibattimenti, ma con rispetto assoluto e sapendo che una città si ricostruisce attraverso quello che fa la società civile e chi si mobilita la società civile come Vincenzo Vittorini. Grazie a Giuseppe Zamberletti che come sempre ci ha illuminato fin dall'inizio su ciò che avviene alla protezione civile. In conclusione, da oggi io metto una nuova piccola rubrichetta con consigli di bellezza e vi do come consigli di bellezza un po' posti strani, cose strane un po' diverse da quelle che trovate nei grandi giornali. Da oggi a domenica a Finalborgo, in provincia di Savona, un antico borgo che è sospeso in un posto meraviglioso, c'è questa festa che è una festa che potrebbe essere uno dei temi fondanti della mia vita, la festa dell'inquietudine. Sono 3 giorni, convegni, incontri, racconti, tutto sull'inquietudine. E a proposito di inquietudine, infatti hanno invitato Paolo Mieli, Renato Zero, no, poi hanno invitato colleghi come Maria Rosa Mancuso, Maurizio Milani, Giuseppe Barbera, artisti, c'è un po' di tutto, c'è Armando Massarenti del Sole, e si parla di donne, immaginate, perché io immagino che sia conveniente andare in un bel posto a parlare di donne collegate all'inquietudine, perché suscitano, creano, non fanno altro che moltiplicarla l'inquietudine. Però cibo ottimo, poi si parlerà di nutrigenomica, di fine del mondo. Che vogliamo fare? Vogliamo il 12-12-2012 dei Maya? Come vogliamo inquadrarlo alla luce della sentenza dell'Aquila? Dovremo evacuare il mondo intero, perché se no avremo qualcuno a cui chiedere evidentemente poi le responsabilità. Comunque, se siete interessati, www.festainquietudine.it, e a questo punto vi auguro buon fine settimana. Lunedì con ogni probabilità parleremo di fusione nucleare, perché ci sono delle novità nella fusione nucleare, mentre ancora non avrete capito, immagino, ma io spero di sì, che Fukushima non è stato Chernobyl, ripeto, non è stato. E così ci lasciamo con un bel po' di polemiche. Tempo per giornale radio, a lunedì, buon fine settimana. 9 in punto.